Capitolo 6. È giunto forse il momento adatto per dare la descrizione fisica di Miss Bronte. Nel 1831 era una quieta e pensosa fanciulla di 15 anni, dal personale molto minuto, sottosviluppato, diceva di se stessa. Le membra e la testa essendo in armoniosa proporzione con l'esile, fragile corpo, nessun termine pur lontanamente atto a suggerire una qualche deformità potrebbe esserle applicato. Soffici, folti capelli castani e occhi tutti suoi, di cui trovo difficile descrivere l'espressione, visto che li conobbi solamente nei suoi ultimi anni. Erano grandi e di un bel taglio, color bruno bruciato, ma se si esaminava l'iride da vicino, ci si accorgeva che il colore era composto da una grande varietà di sfumature. L'espressione abituale era di quieta, intenta intelligenza, ma ogni tanto, per un qualche giusto motivo di intenso interesse o di sana indignazione, splendevano come se una lampada spirituale si fosse accesa e lucesse dietro quei globi oculari espressivi. Non vidi mai nulla di simile in altra creatura umana. Gli altri suoi lineamenti erano privi di bellezza, grossi e mal combinati, ma a meno di incominciare a catalogarli, uno quasi non se ne accorgeva, poiché gli occhi e la loro forza di espressione compensavano ogni difetto fisico. La bocca, il naso grosso, si dimenticavano, l'insieme del viso fissava l'attenzione e subito attraeva tutti quelli che lei desiderava attrarre. Le mani e i piedi erano i più piccoli che io abbia mai visto. Quando una delle sue mani veniva posta nella mia, dava l'impressione del morbido tocco di un uccellino posato in mezzo alla palma. Le dita, lunghe e delicate, possedevano una specialissima sensitività, ragione per cui qualsiasi suo lavoro manuale, scrittura, cucito, maglia, risultava chiaro nella sua minuziosa esecuzione. Era notevolmente ordinata in tutto il vestiario, e addirittura elegante nella scelta appropriata delle calzature e dei guanti. Posso facilmente supporre come la grave, seria compostezza che quando la conobbi dava al suo viso la dignità di un antico ritratto di scuola veneziana non era stata acquisita negli ultimi anni, ma invece risaliva a quando in giovane età si era trovata nella situazione di sorella maggiore di bambini orfani di madre. Ma in una ragazzina una simile espressione doveva essere definita in quell'ambiente campagnolo antiquata e nel 1831, anno di cui sto scrivendo, dobbiamo pensarla come una fanciulla all'antica, posata, che ai modi molto quieti aggiungeva vestiti molto strani, poiché all'influenza esercitata dalle idee del padre sulla semplicità del vestire, adatta alla moglie e alle figlie di un parroco di campagna, ricordiamo la distruzione degli stivaletti colorati e del vestito di seta, si aggiungeva il gusto della zia che sceglieva gli abiti delle nipoti e siccome non era più stata in società da quando aveva lasciato Penzance 8 o 9 anni prima, seguiva la moda di Penzance in quei giorni lontani, tanto cari al suo cuore. Nel gennaio del 1831 Charlotte fu nuovamente mandata a scuola. Questa volta andò come alunna da Miss Wooler a Roe Head, in una gaia e vasta casa di campagna che sorgeva un po' appartata in mezzo a un campo. Sulla destra della strada che conduce da Leeds a Huddersfield. Le finestre all'antica formano due ordini di loggette molto sporgenti che, risalendo dal pianterreno fin sotto il tetto di Roe Head, si aprono sulla lunga china erbosa di un pascolo che scende fino ai bei boschi del parco di Kirklees, residenza di Sir George Armitage. Sebbene Roe Head sia a meno di 20 miglia da Haworth, l'aspetto del paesaggio che circonda le due località non potrebbe essere più dissimile se si trovassero in due climi diversi. Le morbide ondulazioni erbose che circondano la prima danno all'estraneo la piacevole sensazione di respirare aria pura sulle alture, mentre sul fondo delle larghe e verdi valli si gode il piacevole tepore dei raggi del sole. È l'ambiente naturale preferito dai monaci e infatti vi si incontrano ogni dove i resti architettonici dell'antichissimo tempo dei Plantageneti a fianco degli edifici sorti dalla speculazione manifatturiera nell'odierno West Riding. Qui si incontrano il parco di Kirklees, sparso di radure solatie, ombreggiato dai folti rami dei centenari alberi di tasso, e la grigia mole di edifici che nel lontano passato furono una casa di dame professe. Nel profondo del bosco va sbriciolandosi a poco una pietra, sotto la quale dicono giaccia Robin Hood. Quasi sul limite del parco, una vecchia casa dal tetto ad angolo spiovente, trasformata in locanda sulla strada carrozzabile, porta il nome significativo di Le Tre Monache, illustrato dall'insegna dipinta. Questa strana locanda è frequentata dagli operai dal cui lavoro sono prodotti tessuti di lana pettinata che escono dai vicini opifici allineati lungo la strada maestra da Leeds a Huddersfield e sono il centro di altrettanti nascenti villaggi. Tali sono i contrasti di modi di vita, di tempi, di stagioni che il viaggiatore incontra lungo le strade maestre che solcano il West Riding. Penso che in nessun'altra parte dell'Inghilterra secoli diversi siano posti in così stretto, strano contatto come avviene nei pressi di Rowhead. A una distanza facilmente percorribile a piedi, partendo dalla casa di Miss Wooler, sulla sinistra di chi viene da Leeds, si trovano i resti di Howley Hall, oggi proprietà di Lord Cardigan, ma un tempo residenza di un ramo dei Savile. Nelle sue vicinanze vi è il pozzo di Lady Anne, che secondo la tradizione lì era stata sbranata dai lupi mentre sedeva appoggiata al pozzo, verso il quale ancora oggi si radunano gli operai tintori macchiati di indaco, giungendo dalle manifatture di Bristol e di Batley. All'alba della Domenica delle Palme, giorno in cui si crede che quell'acqua venga dotata di notevole forza curativa e alle 6 antimeridiane prenda strane varietà di colori. Nelle altre terre circostanti, possedute dai fattori che vivono nella zona di Howley Hall, sorgono case moderne costruite in pietra, occupate da chi si guadagna da vivere e fa fortuna grazie all'impianto degli opifici che intaccano le tenute degli antichi proprietari e sembrano respingere le vecchie dimore. Queste si possono scorgere in ogni direzione, pittoresche, coi tetti a due falde imposti sui frontoni che incimano i quattro lati del perimetro dei muri, ornati con gli stemmi araldici delle antiche famiglie decadute, pressate dall'urgere dei ricchi manifatturieri che approfittano duramente delle loro necessità acquistando campo dopo campo le terre ancestrali. Un'atmosfera pregna di fumo avvolge le vecchie dimore degli antichi gentiluomini campagnoli dello Yorkshire e annerisce e rovina gli alberi annosi che le ombreggiano. Per giungervi si percorrono sentieri coperti di cenere. Il suolo all'intorno è venduto come terreno da costruzione, ma i vicini, sebbene ormai ricavino la loro sussistenza nell'ambito di una differente società, ricordano che i loro antenati agricoltori erano vissuti grazie alla provvida dipendenza dai proprietari di quelle case, fanno tesoro delle tradizioni connesse a quei maestosi complessi familiari durati di secolo in secolo. Prendete Oakwell Hall, per esempio. Sorge in un pascolo dall'aspetto selvatico, a circa un quarto di miglio dalla strada maestra. Su per giù la stessa distanza la separa dal sedulo ronzio delle macchine impiegate nella manifattura di Burst Hall. E se vi ci recate dalla stazione di Birstall, verso l'ora della refezione incontrate file di operai dalla pelle fatta azzurra dalla tintura della lana che fanno scricchiolare sotto i passi la cenere dei sentieri adiacenti, affrettandosi spinti dalla fame verso il pasto che li attende. Distogliendovi da questo spettacolo, prendendo a destra, salite il pendio di un vecchio pascolo e entrate in un viottolo chiamato Sentiero Insanguinato, perché lungo il suo tracciato passeggia lo spettro di un certo capitano Butt, reprobo proprietario di una vicinissima vecchia dimora al tempo degli Stuart. Dal sentiero insanguinato, ombreggiato da alberi, giungete al campo inselvatichito dove è situata Oakwell Hall, che nelle vicinanze viene riconosciuta come il luogo descritto sotto il nome di Field Head, quale residenza di Shirley da Charlotte Bronte nel suo secondo romanzo. Il recinto che si estende davanti alla facciata è mezzo cortile e mezzo giardino. La sala d'ingresso, rivestita di pannelli di legno, con la galleria sovrastante che apre sulle camere da letto che corrono tutti intorno, il barbaro salotto color pesca, la vista luminosa che si gode dalla porta del giardino che apre sui prati erbosi e le terrazze posteriori, dove i colombi dai morbidi colori ancora oggi tubano e passeggiano dondolandosi al sole, sono descritti in Shirley. Lo scenario di quel romanzo si estende tutti intorno. Gli avvenimenti reali che lo ispirano si svolsero nelle immediate vicinanze. In una delle camere da letto di Hopewell Hall mostrano l'impronta insanguinata di un piede e narrano la storia che vi si riferisce e che interessa anche il sentiero di accesso. Si riteneva che il capitano Butt fosse molto lontano. La sua famiglia risiedeva a Hopewell quando ecco, nell'ombra del crepuscolo, gli giunse. Attraversò la sala d'ingresso, salì le scale, entrò nella sua camera e svanì. Era stato ucciso in duello a Londra quello stesso pomeriggio del 9 dicembre 1684. Muri di pietra della dimora erano parte dell'antico vicariato di cui gli antenati del capitano Butt si erano impossessati nelle torbide lotte per garantirsi le proprietà ecclesiastiche che avevano fatto seguito alla riforma protestante. Questo Henry Butt si era impadronito senza scrupoli di case e di denaro. E per coronare l'opera aveva rubato la grande campana della chiesa di Birstall. Per questo furto sacrilego era stata imposta sulle sue terre una multa che i proprietari del palazzotto pagano ancora al giorno d'oggi. La proprietà di Hopewell passò dalle mani di Butt in quelle di discendenti collaterali che all'inizio dello scorso secolo vi lasciarono come loro ricordo questa pittoresca impronta. Nella grande sala d'ingresso è appeso un imponente paio di corna di cervo, dal quale pende un cartello stampato per ricordare che il 1 settembre del 1763 vi fu un grande raduno di caccia a cavallo durante il quale l'animale era stato ucciso e che 14 gentiluomini avevano preso parte all'inseguimento e banchettarono con le spoglie dell'animale in quella stessa sala, ospiti del proprietario Fairfax Fearnley. Seguono altri 13 nomi, indubbiamente indicanti grandi uomini del tempo che fu, ma di tutti questi, gli unici con cui presi contatto nel 1855 sono Sir Fletcher Norton, procuratore generale, e il generale maggiore Birch. Procedendo oltre Hopewell, a destra e a sinistra, si incontrano case che furono ben conosciute da Miss Bronte nel periodo da lei trascorso a Rowhead, essendo dimore ospitali di alcune sue compagne di scuola. Giungendo nella zona più alta si incontrano stradicciole e sentieri che nei giorni di vacanza permettevano alle studentesse piacevoli passeggiate e infine il cancello bianco che immette nel viottolo per Rowhead. Una delle verande chiuse del primo piano, da cui si gode la piacevole veduta appena descritta, dava luce al salotto, l'altra apparteneva alla sala di studio. La sala da pranzo si trovava da un lato della porta e faceva fronte alla strada. L'affetto gentile della materna Miss Wooler e il ristretto numero delle allieve faceva sì che l'educandato assomigliasse più a una famiglia che a una scuola. Inoltre, la direttrice, come pure le sue alunne, erano nate nelle immediate vicinanze di Rowhead. Con ogni probabilità, Charlotte Bronte, proveniente da Haworth, era quella che giungeva da più lontano. La casa si trovava a 5 miglia. Quella di due altre care amiche, Rose e Jessie York di Shirley, erano ancora più vicine. Due o tre venivano da Huddersfield, una o due da Leeds. Cito da una preziosa lettera che ho appena ricevuto da Mary, una di esse, chiara e grafica nell'espressione, come si conviene a una cara amica di Charlotte Bronte. La descrizione è da riferirsi alla prima comparsa di Charlotte a Rowhead il 19 gennaio 1831. La vidi per la prima volta mentre usciva da una carrozza chiusa, vestita di abiti molto antiquati e con un'aria infreddolita e infelicissima. Veniva a scuola da Miss Wooler. Quando entrò nella sala da studio aveva cambiato vestito, con uno altrettanto fuori moda. Aveva l'aspetto di una vecchietta, così miope che guardandosi intorno sembrava cercasse qualcosa, muovendo il capo di qua e di là per riuscire a vederla. Era timidissima e nervosa e parlava con un forte accento irlandese. Quando le diedero un libro, vi piegò su il capo fin quasi a toccare la pagina col naso, e quando le dissero di tirarlo su, si portò dietro il libro, sempre vicinissimo al naso, tanto che non fu possibile trattenersi dal ridere. Questa fu la prima impressione che produsse su quella di cui doveva diventare una cara e preziosa amica. Un'altra ragazza rammenta quando vide per la prima volta Charlotte che il giorno del suo arrivo rimaneva vicino alla finestra della sala da studio a guardare il paesaggio innevato, piangendo mentre le altre giocavano. E era più giovane di lei e il suo tenero cuore fu commosso dall'apparenza desolata di quella ragazzina, dal vestito strano, dallo strano aspetto. Mentre in quella mattina d'inverno, piena di nostalgia per la sua casa, se ne stava in lacrime in un luogo estraneo, in mezzo a gente sconosciuta. Un qualsiasi gesto di enfatica gentilezza avrebbe spaventato la selvatica ragazzina giunta da Haworth, ma E, che viene riconosciuta nella Caroline Helston di Shirley, seppe conquistarsene la fiducia e le fu possibile dimostrarle simpatia. Sempre citando dalla lettera di Mary, la giudicammo molto ignorante perché non aveva mai studiato la grammatica e sapeva pochissimo di geografia. Questo racconto della sua parziale ignoranza è confermato dalle altre condiscepole, ma Miss Wooler era una signora di notevole intelligenza, capace di delicata, tenera simpatia. Miss Wooler la prese da parte e le disse che temeva di doverla mettere nella seconda classe in un primo tempo, per darle modo di raggiungere il livello delle educande della sua età, nella conoscenza della grammatica e delle altre materie. Ma la povera Charlotte accolse questa notizia con un così disperato scoppio di pianto che il gentile cuore di Miss Wooler ne fu commosso. Si rese saggiamente conto che con una simile figliola era meglio metterla nella prima classe, permettendole di riparare con lo studio privato a tutte le sue deficienze. Ci confondeva, dando prova di sapere cose che erano completamente fuori dalla nostra portata. Conosceva la maggior parte dei brani di poesia che dovevamo studiare a memoria, sapeva dircene gli autori, sapeva da quali componimenti fossero ricavati, a volte ne recitava una o due pagine e ce ne raccontava tutto l'intreccio. Aveva l'abitudine di scrivere in stampatello e ci disse che lo aveva imparato scrivendo la loro rivista. Lei, il fratello e le sorelle facevano uscire una rivista una volta al mese e desideravano che sembrasse quanto più possibile veramente stampata. Nessuno vi scriveva e nessuno la leggeva all'infuori di loro. Promise di mostrarmi alcuni numeri di questa rivista, ma si rimangiò la parola e nulla poté indurla a desistere dal rifiuto. Durante le nostre ore di ricreazione se ne stava seduta oppure ritta, ma immobile a leggere appena poteva. Una volta alcune di noi insistettero affinché partecipasse a una partita a palla. Rispose che non aveva mai giocato e non sapeva giocare. La facemmo provare, ma presto ci rendemmo conto che non poteva vedere la palla e così la lasciamo fuori. Accettò il nostro modo di agire con docile indifferenza. Dava sempre l'impressione di avere bisogno di decidere fra sé e sé per dire no a una qualsiasi richiesta. Era solita andarsene sotto gli alberi, standosene ritta nel recinto dove giocavamo e diceva che era più piacevole così. Tentava di spiegarcelo indicando le ombre e i tratti di cielo che apparivano fra i rami. Noi capivamo poco. Diceva che a Cowan's Bridge le piaceva starsene ritta su una pietra in mezzo al rivoletto a guardare l'acqua che passava scorrendo. Le dissi che sarebbe dovuta andare a pescare. Rispose che non ne aveva mai provato il desiderio. In tutto quanto faceva dimostrava debolezza fisica. A scuola non mangiava cibo preparato con carne. Fu verso quell'epoca che io le dissi che era molto brutta. Alcuni anni dopo mi resi conto che ero stata veramente impertinente e glielo dissi. Mi rispose: "Oh, mi facesti un gran bene, Polly, perciò non pentirtene". Era solita disegnare assai meglio e più rapidamente di quanto avessimo mai visto fare e sapeva molte cose sui quadri e sui pittori celebri. Ogni qualvolta aveva l'opportunità di esaminare un dipinto o una incisione di qualsiasi tipo, la osservava centimetro per centimetro con gli occhi quasi appoggiati alla carta, guardando così a lungo che finivamo col chiedere cosa mai ci vedesse. Poteva sempre scorgervi moltissime cose e le spiegava assai bene. Scriveva poesie e faceva disegni interessantissimi, perlomeno secondo me. Presi allora l'abitudine che conservo ancora di fare riferimento mentalmente alle sue opinioni in proposito, risolvendo di descriverle questa o quella cosa, finché trasalisco ricordando che non lo potrò fare mai più. Per valutare pienamente la portata di quest'ultima frase, per sottolineare quanto vivida e duratura sia stata l'impressione che Miss Bronte faceva su quante erano all'altezza di apprezzarla, devo far notare che chi scrive questa lettera in data 18 gennaio 1856, raccontando quanto costantemente si riferisse all'opinione di Charlotte, non l'aveva più incontrata negli ultimi 11 anni trascorsi in un paese straniero, in un continente nuovo situato agli antipodi. Eravamo furiosamente politicizzate, quali era impossibile non essere nel 1832. Lei conosceva i nomi dei due ministri, di quello che si era dimesso e dell'altro che gli era succeduto approvando il decreto sulla riforma. Adorava il duca di Wellington e diceva che di Sir Robert Peel non ci si poteva fidare. Egli non agiva secondo un proprio principio come facevano gli altri, ma per opportunismo. Io, appartenendo al furioso partito radicale, le dicevo: come possono fidarsi l'uno dell'altro? Sono tutti quanti dei mascalzoni. Allora lei si slanciava a tessere le lodi del duca di Wellington basandosi sulle sue azioni, al che io non potevo controbattere perché non sapevo nulla di lui. Mi diceva che si era interessata di politica fin da quando aveva 5 anni. Non ripeteva le opinioni di suo padre, non direttamente, ma si basava sui giornali che lui preferiva. Per dimostrare meglio la verità di quanto sopra, posso citare il brano di una lettera al fratello scritta da Rohi del 17 maggio 1832. Ultimamente avevo incominciato a pensare di aver perso l'interesse che in passato avevo per la politica, ma l'estremo piacere che provai alla notizia che il decreto sulla riforma era stato respinto dalla Camera dei Lords e della espulsione o dimissione di Lord Grey mi ha convinta che non ho ancora perduta tutta la mia propensione per la politica. Sono estremamente lieta che la zia abbia consentito all'abbonamento al Fraser Magazine, visto che pur sapendo dalla tua descrizione che il suo contenuto generale sarà piuttosto privo di interesse, paragonato al Blackwood, sarà tuttavia meglio che restare l'intero anno senza avere modo di vedere un qualsiasi periodico. E questo sarebbe certamente il nostro caso. Poiché nel piccolo selvaggio villaggio della brughiera in cui risiediamo, non ci sarebbe modo di prendere a prestito qualcosa del genere da una biblioteca circolante. Spero, insieme a te, che l'attuale delizioso tempo possa contribuire al perfetto recupero del nostro caro papà e che dia alla zia piacevoli reminiscenze del clima salubre del suo luogo natio, eccetera, eccetera. Tornando alla lettera di Mary, spesso, scrive, parlava delle sue due sorelle maggiori, Mary ed Elizabeth, che erano morte a Cowan's Bridge. Ero solita pensarle come meraviglie di talento e di gentile bontà. Una mattina, per tempo, mi disse che aveva appena fatto un sogno. Le avevano detto che era desiderata in salotto e vi aveva trovato Mary ed Elizabeth. Ero ansiosa che continuasse nel racconto e quando mi disse che non c'era altro, le chiesi: continua, inventa, so che ne sei capace. Disse di no, desiderava non aver sognato perché le cose che si erano svolte bene erano cambiate. Avevano dimenticato quello che un tempo le interessava. Erano vestite molto elegantemente e avevano incominciato a criticare la sala. L'abitudine di inventarsi interessi, propria della maggior parte dei bambini che non ne hanno nessuno nella vita quotidiana, era fortissima in lei. Tutta la famiglia soleva inventare storie e creare personaggi e avvenimenti. Una volta le dissi che mi sembravano patate germoglianti in una cantina. Lei disse tristemente: sì, so che lo siamo. Quello che ho udito da altre fonti circa i suoi giorni di educandato conferma l'accuratezza dei particolari contenuti in questa curiosa lettera. Era una studentessa infaticabile. Leggeva e imparava di continuo. Aveva una salda convinzione assai insolita in una quindicenne, di quanto l'istruzione fosse necessaria e di un valore essenziale. Non perdeva mai un minuto di tempo e quasi sembrava rammaricarsi amaramente delle ore concesse alla distensione e al gioco, il che poteva essere solo parzialmente attribuito alla goffaggine cagionata dalla miopia. Tuttavia, a dispetto delle sue consuetudini poco sociali, era molto ben vista dalle compagne. Era sempre pronta a tentare di fare quello che desideravano, benché non le dispiacesse quando le dicevano che era goffa e la lasciavano fuori dai loro giochi. Poi, di sera, diventava una narratrice infaticabile, lasciandole spaventate a morte quando più tardi andavano a letto. In un'occasione l'effetto fu tale che lei stessa si mise a urlare e Miss Wooler, venendo al piano di sopra, scoprì che una delle ascoltatrici era in preda a violente palpitazioni a causa dell'eccitazione per la storia narrata da Charlotte. La sua instancabile brama di apprendere indusse Miss Wooler a darle sempre più lunghi compiti da preparare in vista degli esami e solo verso la fine dei 2 anni che ella trascorse a Rowheath in qualità di educanda meritò la prima e ultima insufficienza per una lezione saputa male. Aveva dovuto leggere una grande quantità delle conferenze sulle belle lettere di Blair e non era riuscito di rispondere ad alcune domande in proposito. Charlotte Bronte si vide dare un brutto voto. Miss Fuller fu spiacente di aver sovraccaricato un'alunna tanto volonterosa. Charlotte pianse amaramente, ma le sue condiscepole, più che spiacenti, furono indignate. Dichiararono che infliggere un castigo, per leggero che fosse, a Charlotte Bronte era ingiusto, poiché chi altri aveva cercato di compiere il proprio dovere come lo aveva fatto lei, e dimostrarono i loro sentimenti in vario modo, finché Miss Fuller, che in realtà non era che troppo desiderosa di passare sopra la prima mancanza della sua ottima alunna, cancellò il brutto voto e le ragazze tornarono all'obbedienza, eccetto Mary, che durante 1 o 2 settimane che rimanevano prima della fine del semestre prese una posizione personale disobbedendo a qualsiasi regola dell'educandato per dimostrare la sua riprovazione all'ingiustizia commessa da Miss Fuller nel dare a Charlotte Bronte una lezione più lunga di quanto le fosse possibile imparare.